Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. I've been gone for a minute, been low key with my business, asking Rita who is it true? I've been taking off every weekend, you and I and our feelings, cause the high's so much better with you. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda all'attualità, alla cultura, agli stili di vita, allo sviluppo del pensiero, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 703 e parleremo di mammiferi marini sottoposti a indicibili violenze dirette e indirette, di orsi messi per il momento in salvo, di cinema, di nuove leggi da capire e probabilmente criticare. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono curate entrambe dal nostro tosco vegan chef, nonché DJ, Gabriele Palloni. Molte volte ci siamo soffermati sull'orribile caccia a balene e globicefali praticata negli oceani anche al largo delle coste europee. Sono mattanze ripugnanti, coi grandi mammiferi marini martoriati per ore e ore, accerchiati da imbarcazioni sempre più potenti, colpiti da strumenti sempre più devastanti e poi portati a riva agonizzanti in un mare letteralmente di sangue. Per certe persone, poche per fortuna, ma ancora troppe, è uno spettacolo ancora esaltante in quanto atto di dominio sulle vite altrui. Per altre persone è ancora un affare economico, spesso clandestino. E per qualcuno una tradizione da rispettare e onorare in quanto tale. È un fatto che queste mattanze continuano a ripetersi, a dispetto di normative che cercano di vietarle o almeno limitarle, e nonostante il disgusto e il rigetto dei più. Stavolta, la campagna di caccia alle balene è arrivata a fare notizia sui giornali di mezzo mondo perché una nave da crociera, con un carico di un migliaio di turisti, si è imbattuta in una di queste mattanze, alle isole Faroe nel Nord Atlantico, fra Scozia, Islanda e Norvegia. Circondati dal sangue, dall'agonia degli animali, dall'orrore vissuto in diretta, molti turisti hanno manifestato la propria ripugnanza e protestato contro la compagnia che aveva organizzato il viaggio. La Cruise Lines, alla fine, di fronte alle proteste, ha preso posizione. «Siamo rimasti incredibilmente delusi», ha detto un portavoce, «del fatto che questa caccia sia avvenuta nel momento in cui la nostra nave è arrivata in porto», esprimendo, sembra, un disappunto per la coincidenza indesiderata. Poi però il portavoce è andato oltre. «Ci opponiamo fermamente», ha detto, «a questa pratica obsoleta e stiamo lavorando con il nostro partner Orca», un ente di beneficenza dedito allo studio e alla protezione di balene, delfini e focene nel Regno Unito e nelle acque europee, per portare avanti il cambiamento e dire no a quanto abbiamo visto. Speriamo che questa lotta prosegua con questi nuovi alleati e porti a risultati concreti. A proposito di mammiferi marini e di immagini tristi e violente, nei giorni scorsi il British Divers Marine Life Rescue ha diffuso le immagini di decine di globicefali spiaggiati sulla remota isola di Lewis in Scozia, facente parte dell'arcipelago delle Ebridi esterne. Solo uno degli animali è riuscito a riprendere il mare e mettersi in salvo. Tutti gli altri sono rimasti intrappolati sulla spiaggia, perdendo la vita. Non sono chiari i motivi di questo terribile evento. L'ipotesi più accreditata dagli esperti aggiunge alla vicenda ulteriore amarezza. Si pensa infatti che i frequenti spiaggiamenti dei globicefali, numerosi soprattutto in Nuova Zelanda e Australia, siano legati alla notevole socialità di questi animali. In Oceania, in particolare, accade spesso che si arenino dei pod, cioè dei gruppi di convivenza fra globicefali, composti da centinaia di individui ciascuno. Secondo gli esperti, quando un leader del gruppo è ferito o sofferente e si avvicina alla costa, tutti gli altri finiscono per seguirlo, fino al potenziale drammatico esito dello spiaggiamento di massa, che può essere favorito da condizioni geografiche del mare particolari, magari fondali bassi e poco inclinati, che possono diventare delle trappole. Nel caso scozzese, i ricercatori dell'Istituto Britannico hanno rilevato che una femmina aveva partorito da poco. Perciò è possibile che a causa del parto complicato si sia avvicinata alla costa e che i suoi compagni l'abbiano seguita, fino al tragico epilogo. It's a blue day. We could jump a leap. When I hit that water, when it holds me, I think about my father doing the same thing when he was a boy, when he was a boy. It's a blue day, we could go fishing, you'll catch the big one. Torniamo a parlare di JJ4 e MJ5, i due orsi trentini braccati dalle autorità della provincia di Trento che li vuole morti e anzi ha già emesso sentenze di morte a loro carico. Per il momento i due orsi sono però salvi perché secondo il Consiglio di Stato, che ha deliberato il 14 luglio scorso su sollecitazione di ricorsi delle associazioni animaliste, il provvedimento che dispone l'abbattimento dell'animale, si trattava in questo caso di JJ4, appare sproporzionato e non coerente con le norme sovranazionali e nazionali che impongono l'adeguata valutazione di misure intermedie. Ferma restando, dice la sentenza, la disposta captivazione a tutela della sicurezza pubblica, va sospeso l'ordine di abbattimento dell'animale. Così il Consiglio di Stato. Gli atti dunque ora tornano al TAR per l'udienza di merito, che dovrà valutare la sorte dei due animali. L'una sotto accusa per l'uccisione di Andrea Papi, un giovane che correva nel bosco il 6 aprile scorso. L'altro considerato problematico e responsabile di vari episodi controversi. Secondo Carla Campanaro, responsabile dell'ufficio legale della LAV, l'aspetto più interessante del provvedimento, citiamo da una sua nota, è certamente la declinazione del principio di proporzionalità di misure proprie del diritto ambientale, alla luce del principio generale e costituzionale di tutela del singolo animale, titolare di un diritto alla vita espressamente riconosciuto, che va oltre il riconoscimento quale specie protetta da gestire. Parliamo quindi di individui e non in generale di orsi. Altro punto importante per Carla Campanaro, il fatto che il giudice abbia affermato, citiamo ancora dalla nota diffusa dall'avvocata, la piena legittimità di misure di trasferimento dell'animale in santuari esteri e l'obbligo per la provincia di Trento di industriarsi per trovare soluzioni alternative all'uccisione, anche cooperando, dice Campanaro, con il mondo delle associazioni. Ci sarebbero dunque le premesse giuridiche per il trasferimento dei due orsi nel santuario individuato in Romania, il quale ha dato la propria disponibilità, su sollecitazione peraltro, del nostro Ministero per l'Ambiente. Vedremo. L'iter giudiziario è ancora in corso e intanto JJ4 è costretta a vivere, o meglio sopravvivere, nell'angusto recinto del Casteller a Trento. E ogni giorno perso è per lei un giorno in più di tortura. Quanto al presidente della provincia, Maurizio Fugatti, ha commentato l'articolata decisione del Consiglio di Stato, affermando, nemmeno a dirlo, che si è trattato di una sentenza ideologica. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Abbiamo parlato la settimana scorsa dell'approvazione a Strasburgo al Parlamento Europeo della Nature Restoration Act, la legge che dovrebbe introdurre, una volta ultimato il suo complicato iter, regole precise in materia di ripristino e conservazione degli ecosistemi. La legge è stata approvata con una maggioranza risicata al termine di un dibattito che per Greta Thunberg, presente con gli attivisti di Fridays for Future e altre associazioni all'esterno del Parlamento, dibattito che è stato secondo lei scandaloso. Abbiamo chiesto un commento al nostro Francesco Panier, giornalista, esperto di questioni ambientali e amico dell'antispecismo. Contro 312. Grazie a un manipolo di dissidenti, la legge sul ripristino della natura ha superato l'ostacolo posto dalle destre del Parlamento europeo, determinate a farla fallire. Così, il 12 luglio scorso, gli eurodeputati hanno approvato questa Nature Restoration Law, che ora dovrà essere nuovamente oggetto di trattative con gli Stati membri. La legge, che cerca di introdurre obiettivi vincolanti per ripristinare la natura dell'Europa, è diventata un enorme punto di contesa all'interno del Parlamento europeo, con la parte destra dell'emiciclo che si è battuta ferocemente per bocciarla. Alla fine è passata in una versione ammorbidita, al punto che stenterà a produrre effetti tangibili. La legge mirava a invertire il drastico declino degli ecosistemi nel continente, che sono in buono stato di salute solo per il 15%. Un fatto che pesa sulla qualità dell'acqua, dell'aria, sul rischio di incendi e sul declino della fauna selvatica, in particolare degli impollinatori. Foreste più diversificate e dense, aree protette, interventi sui corsi d'acqua e sulle aree agricole sono necessari per riportare biodiversità in Europa. La Commissione europea ha infatti inserito in questa legge degli obiettivi precisi: ripristinare il 20% della superficie terrestre e il 20% di quella marina entro il 2030, per arrivare al 100% entro la metà del secolo. I legislatori del Partito Popolare e i conservatori li hanno però contrastati, dicendo che la legge avrebbe avuto un impatto negativo sulla produzione alimentare e sui mezzi di sussistenza degli agricoltori, dei silvicoltori e dei pescatori. La lobby dell'agroindustria ha fatto il diavolo a quattro per ribaltare il voto, perché considera una iattura aumentare la quota di elementi paesaggistici ad alta diversità nei terreni agricoli e il carbonio organico nel suolo, così come gli sforzi per aumentare le popolazioni di farfalle e uccelli. Significherebbe usare meno chimica, lasciare zone incolte nei campi e adottare metodi culturali migliori, più in armonia con i cicli ecologici. Alla fine, la pressione ha avuto un effetto. La versione della legge, per quanto approvata, è molto indebolita, visto che sono passati emendamenti che hanno cancellato tutte le misure più ambiziose per il ripristino della natura nei terreni agricoli, uno che ha cestinato la tutela degli impollinatori e uno che impone di realizzare una valutazione di impatto sulla sicurezza alimentare di questa misura. In pratica, serve ad allungare i tempi di approvazione e magari a indebolire ancora il testo finale. Risultanza della società civile è quindi stata molto contenuta, perché è chiaro a tutti che per recuperare gli ecosistemi europei compromessi c'è ancora tantissimo da fare. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Alla fine l'hanno spuntata, la lobby agricola e degli allevamenti, come previsto, ha ottenuto una legge contro la produzione, il commercio e il consumo della cosiddetta carne coltivata, ottenuta cioè da cellule staminali, quindi senza l'allevamento e l'uccisione di animali. La maggioranza di destra e estrema destra che sostiene il governo Meloni ha motivato la norma, appena approvata dal Senato, con la necessità di proteggere la salute dei cittadini e le produzioni nazionali tradizionali. Contro la legge, che una volta approvata in via definitiva metterebbe l'Italia in una posizione anomala, unico paese ad avere legiferato in tal senso, sono state non solo le opposizioni parlamentari, ma anche chi adotta un punto di vista strettamente scientifico, essendo del tutto immotivate le obiezioni sul tema della salute e poco comprensibile l'esclusione del nostro paese dalla possibile crescita di un comparto che unisce ricerca e produzione. La saga della carne coltivata è comunque destinata a proseguire. Aspettiamo le prossime puntate. Come si chiama questa voglia di vivere? Che nel suo corpo ha bisogno di espandere. Emilio Maggio, critico di cinema e autore con Massimo Filippi di un libro pionieristico come Penne e pellicole, edito da Mimesis, dedicato agli animali nel cinema e nella letteratura, sta curando per noi da qualche tempo una nuova rubrica dedicata agli animali sul set. È un lessico che propone una serie di lemmi e stavolta tocca la lettera E, E come elefante. Cinema, sempre la locandina, Tinto Brass, cambi 100 volte pezzo, non sopporti il tuo silenzio. Parte musica del cazzo che si attacca al mio cervello. Coca-Cola così non mi va. Perché no, perché no, vieni qua. Com'è triste la vita in città. quando pensi di andare a dormire, ricominciamo a saltare. E come elefante. È incredibile come l'elefante, animale totem che fa riemergere il rimosso umano preistorico, abbia contrassegnato alcuni dei momenti più importanti della storia del cinema. Le sue dimensioni sembrano infatti evocare qualcosa che va oltre la comprensione umana, una dimensione extra che, oltre ad occupare l'intero campo dell'inquadratura, strabordando i confini del guardabile concepiti sulla figura umana e i suoi relativi piani di ripresa, alludono anche a quella latenza animale che costituisce un'altra storia del cinema. La storia di questo cine animale inizia infatti nel 1903, quando, come ho già detto in una delle puntate precedenti, Edison fece arrostire l'elefantessa Topsy tramite elettrocuzione, riprendendone l'esecuzione per dimostrare l'efficacia della corrente continua di contro alla pericolosità di quella alternata di cui si faceva portavoce e promotore il suo diretto concorrente Tesla in quella che fu definita la guerra delle correnti. La sua adattabilità alla domesticazione, la sua sensibilità interspecifica ne fanno purtroppo il soggetto ideale per certe forme di sfruttamento spettacolare, che sia il tendone di un circo, il set di un film girato in contesti esotici e selvaggi. Questo ovviamente non significa che l'elefante sia un animale totalmente remissivo che subisce e non si ribella ai suoi aguzzini, come dimostrato dal caso di Topsy. Proprio questa sua disponibilità sensuale costituisce un archetipo paradossale, nonostante le sue dimensioni, la sua forza eccezionale, l'invulnerabilità pachidermica. L'elefante sembra avere una grazia comunicativa che forse solo Disney riuscì a catalizzare nel suo film più riuscito di animazione, quel Dumbo, che fu una vera e propria esperienza psichedelica per lo spettatore. Il riscatto catartico dell'elefantino rosa dal circo in cui è costretto a lavorare viene percepito dal pubblico infatti come se fosse una vera e propria modificazione dello stato di coscienza. Prodotto nel 1941, Dumbo, oltre a salvare Disney da una probabile bancarotta, sembra rendere giustizia proprio all'esecuzione di Topsy. Ma il film che forse rivela il lato oscuro dell'umanità è Cacciatore Bianco Cuore Nero, girato da John Huston nel 1990. La storia narrata è un perfetto compendio del mio abecedario controfattuale. John Wilson, chiaro alter ego del filmmaker americano, è un regista ossessionato dall'animalità ferina e dalla caccia grossa. Per questo sceglie l'Africa e i suoi parchi naturali per inscenare un'autentica caccia all'elefante. Ma quando si trova tu per tu con il pachiderma in una delle sequenze più coinvolgenti dell'intero film, non ha il coraggio di sparare e rinuncia alla sua messa a morte. Il titolo del film sembra citare un celebre saggio dello psichiatra Frantz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, che in qualche modo ha determinato lo sviluppo degli studi postcoloniali e decoloniali. Huston, come aveva già fatto anni prima in Misfits, Gli spostati, rilegge con pochissime inquadrature, un plot scarnificato, direi basico, l'intera storia del cinema come fosse la storia di un dispositivo che è diretta emanazione della governance liberista, che nel razzismo, nel colonialismo e nello stretto legame di queste condotte con lo sfruttamento delle esistenze non conformi ai modelli di soggettivazione imposta, la vera questione per immaginare un mondo diverso. Nel suo gioco al massacro, Huston è abilissimo nell'intrecciare sfruttamento degli animali a fini spettacolari, gestione del set con animali selvatici, problemi produttivi che nascono tra le maestranze locali africane, guide turistiche per safari crudeli, ma soprattutto la dialettica perversa tra il White Hunter, interpretato da Clint Eastwood, e il cuore nero dell'Africa equatoriale. Concludo questa breve disamina con un film di culto di David Lynch, Elephant Man, che sembra sovvertire la dicotomia vittima-carnefice spesso associata alla problematica relazione umano-animale attraverso la mostruosa e difforme fisionomica di John Merrick, affetto da una grave malattia degenerativa che lo trasforma in un freak da esibire nei circhi e nelle fiere dell'Inghilterra della rivoluzione industriale. Qui infatti l'oggetto oscuro del desiderio è un essere umano difforme, la cui conformazione fisica rimanda più a un animale che a un rappresentante della sua specie. L'uomo elefante si uccide semplicemente appoggiando il capo su un cuscino. Per respirare normalmente ha infatti bisogno della posizione eretta, ma essendo una figura teriomorfa, metà uomo, metà bestia, questa gli sarebbe verrebbe preclusa nei cosiddetti spazi pubblici. E infatti nel privato che si autoinfligge la propria morte è schiacciato da quel corpo pachidermico che non ha diritto di vivere. Ma John Merrick è anche lo specchio deformante dello stesso pubblico che si diverte a guardarlo in maniera morbosa, e sul set lo spettacolo vivente non è più l'animale, ma la sua immagine vivente, ovvero l'uomo. Come sempre, è lo sguardo a dettare la norma e a fare la differenza. Come tutte le settimane, Gabriele Palloni, chef, DJ e autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una ricetta a partire da una delle notizie della puntata. Sentiamo che cosa ha scelto. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Almeno per ora gli orsi sono salvi. E potevamo non ispirarci a questa notizia per la ricetta della puntata? Presto fatto, e dal latino salvus, peschiamo l'ingrediente principale del pesto che vi racconterò oggi, la salvia, che deve il suo nome alle sue molteplici proprietà benefiche, ricetta che ho battezzato col nome di Salviamo il Salviabile. Gli ingredienti per 4 persone sono 50 g di farina di ceci, un cucchiaio di succo di limone, 2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie, uno spicchio di aglio, la scorza grattugiata di mezzo limone, un mazzetto di salvia, un mazzetto di basilico, 20 g di mandorle tostate, un cubetto di ghiaccio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci in 200 ml di acqua e un cucchiaio di succo di limone. Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e un pizzico di sale. Fate addensare a fuoco lento in una casseruola mescolando con una frusta. Quando il composto avrà raggiunto una consistenza cremosa e densa, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare e compattare in un contenitore spennellato di olio. Preparate il pesto mettendo nel mixer la salvia e il basilico nella stessa quantità. Aggiungete le mandorle, mezzo spicchio di aglio, un cucchiaio di lievito alimentare, un cubetto di ghiaccio spaccato e olio extravergine. Tritate il tutto e aggiustate di sale. Aggiungete il composto di ceci e frullate ancora. Se necessario aggiungete acqua o brodo vegetale e un altro po' di olio extravergine. Quando avete ottenuto una crema liscia, togliete dal frullatore e versate in un contenitore. Unite la scorza di limone grattugiata e mescolate con un mestolo, quindi lasciate in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Questa crema è ottima per condire pasta calda o fredda, risotti, gnocchi, ma anche verdure al vapore o per fare delle bruschette da aperitivo. Commetta la Bibbia, Pamela di via Uruguay. Mi mandi un messaggio per dirmi che mi aspetti e che ci stai. La porta a Venezia o all'isola dentro un bar. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Pallone, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.